Inizia così l'ultimo album di Iggy Pop, che si chiama Every Loser ed è uscito lo scorso 6 gennaio. Una sorta di regalo della Befana che il padrino del punk americano ha voluto fare ai suoi fan. Questa prima traccia, che è stato anche il primo singolo uscito lo scorso ottobre, si chiama Frenzy ed è stata definita come grezza ed energica dalla nota rivista New Musical Express. Questa canzone detta il ritmo all'intero disco, che è stato prodotto da Andrew Watt, coautore di tutti i pezzi, che sono 9, con l'aggiunta di 2 interludi, ed è una produzione un po' vecchio stile che non rinuncia alle sonorità contemporanee. Lo stesso Iggy Pop ha dichiarato come l'intenzione del disco sia quella di picchiare a morte chi ascolta, e non fatichiamo a crederci, visto che la sua voce è sempre stata graffiante e provocatrice. I suoni del nuovo disco non impediscono all'iguana del rock di trattare anche tematiche mature, come l'età che avanza, nella canzone Morning Show, la sua eredità artistica e soprattutto il cambiamento climatico e la disparità sociale in All the Way Down. Iggy Pop ha compiuto già 75 anni e 55 di questi sono stati occupati dalla sua prolifica carriera musicale, anche nel gruppo The Stooges, ed è stato inserito al 75esimo posto della top 100 dei migliori cantanti di sempre dalla rivista Rolling Stone. In questo ultimo album non rinuncia a collaborazioni di prestigio come Duff McKagan, bassista dei Guns N' Roses, Taylor Hawkins, ex batterista dei Foo Fighters, scomparso l'anno scorso e celebrato con 2 grandiosi concerti tributo, e Chad Smith, anche lui batterista, ma dei Red Hot Chili Peppers, che accompagnerà Iggy anche nel suo prossimo tour, che arriverà in Europa a giugno, dopo aver fatto qualche data negli Stati Uniti ad aprile. Ancora nessuna notizia per l'Italia, ma aspettiamo fiduciosi l'annuncio dei prossimi concerti. Chad Smith ha contribuito anche al secondo singolo estratto dall'album, Strung Out Johnny, uscito lo scorso dicembre.